che pensi come un uomo, come un uomo la felicità, e dimentichi perché ho la gonna, tutto il mio mondo è la mia realtà, che l'amore non è divisibile, divisibile a metà, e soprattutto che non puoi distruggere per un tuo vizio la mia serenità. Ma cosa vuoi che sia? Era solo una canzone. Ma non ti preoccupare, che domani sarà tutto uguale. Pensi come un uomo normale, e dimentichi nei pantaloni qual è il prezzo e chi dovrà pagare, e che non hai diritto solo tu a vivere, e che anche tu hai delle responsabilità, ma non capisci che non puoi distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, uomo mio, dormi pure sopra il corpo mio, e non ti preoccupare, che domani sarà tutto uguale. Cosa vuoi che sia? Era solo una canzone. Dormi pure, uomo mio, che domani sarà, sarà migliore. Sarà migliore dopo questa canzone. Sarà migliore.